Federico Bano, lei è partito dal Veneto negli anni 70 per andare a fare la moda, come si diceva, a Milano. Oggi è possibile invece rilanciare, secondo lei, anche il territorio attraverso un archivio della moda come quello di Iole Veneziani, che voi presto renderete fruibile al pubblico a Padova, a Palazzo Zabarella? All'epoca, come ha ben detto lei, era indispensabile essere a Milano per essere internazionali. Oggi, con le realtà locali fortissime e con questa testimonianza, è sicuramente possibile rielaborare progetti e trovare nuove occasioni anche di economia. È stato proprio a Milano che lei è venuto a contatto con Iole Veneziani, una delle grandi firme della moda italiana degli anni 70. A lei poi la stilista ha voluto lasciare il proprio archivio che è rimasto quasi congelato per anni. Ora lei si trova a dover gestire una vera e propria miniera. Beh, scongelata, ci ha fatto immediatamente apparire anche i suoi odori, il suo profumo e quindi la sua freschezza. E stiamo immaginando dei percorsi che ci porteranno a presentarla al pubblico con una serie di iniziative, sicuramente in Veneto ma anche altrove, allo scopo di promuovere e cercare nuove occasioni. Io so anche che poi c'è una novità per la primavera del 2010. Sì, a marzo faremo un bel progetto di mostra e esporremo cose significative in un progetto ben integrato, adatto all'occasione di Iole Veneziane. Per la sua idea, chi dovrebbe essere il fruitore dell'archivio? Le imprese? Anche gli studenti? Ah beh, sicuramente sì, è una grande occasione formativa, evidentemente sì. Per le imprese invece che cosa c'è da imparare? Per le imprese, guardando l'archivio non come esposizione museale, ma estrapolando e rimettendo insieme brani e quindi in un progetto attuale, è possibile trovare anche nuove idee, nuove pulsioni e quindi anche occasioni importanti.